Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, stasera Juventus-Genoa, anticipo della dodicesima di campionato, sfida che può lanciare la Juventus in testa alla classifica, sia pure temporaneamente, o può consacrare definitivamente il Genoa. Segnalo che in caso di vittoria della Juventus raggiungerebbe l'Inter, poi ovviamente l'Inter avrebbe una partita in più, ma siamo alla vigilia di Inter-Juventus in programma il prossimo turno. Match clou, questo non è in discussione, di questa prossima giornata di campionato, curiosamente anticipato al giovedì per fare posto sabato pomeriggio a Torino, lo sapete, a Italia-Argentina di rugby. La vigilia nelle voci dei due tecnici, prima Ranieri. Quest'anno il Genoa ha speso molti soldi, ha preso giocatori di qualità, ha perso Borriello ma ha trovato Milito, per cui sta facendo veramente ottime cose. Genoa è un'ottima squadra, ha dei meccanismi, delle triangolazioni collaudate, è una squadra che sa chiudersi nella propria metà campo e sa ripartire, per cui ha il doppio valore, quello di saper giocare quando deve attaccare a tutto campo e anche quando deve fare le ripartenze, e sa chiudersi molto bene, per cui ci vorrà una grossa prestazione. Vediamo che intenzioni ha sull'altro fronte un tecnico che è cresciuto nella Juventus, nelle giovanili, ha vinto il Viareggio nel 2003 alla guida della Primavera e poi ha preso un'altra strada e mi sembra che la stia percorrendo con nei primi tempi con grande dignità, adesso anche con grandi risultati. Gasperini. Stimo molto Ranieri, perché è una persona, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, eccetera, è una persona equilibrata che ha fatto dei risultati importanti, una persona che nel mondo del calcio ci sta molto bene, insomma, è un bel esempio. Poi dopo ha avuto, come tutti gli allenatori, quando perdiamo andiamo sulla graticola, però il fatto che ha avuto comunque la considerazione della società in un momento difficile è sintomatico anche che ci sono anche altri valori oltre quelli del campo, insomma. Abbiamo acquisito una maggiore considerazione nei confronti anche degli avversari. È difficile che quando arriva il Genoa troviamo degli avversari che li possiamo sorprendere in qualche modo. Timore non ce l'hanno loro, non l'abbiamo noi. Cioè i giocatori devono essere bravi. Dice Borriello fa capocannoniere, Milito capocannoniere. Non è lo schema di Gasperini, cioè sono giocatori bravi. Poi dopo, se no magari farebbero... Probabilmente il fatto che è una squadra offensiva aiuta magari a finalizzare un po' di più, però poi no, anche vinci il capocannoniere, magari fai 10 gol anziché 15. No? Beh, resta il fatto che il Borriello della prima parte della stagione scorsa a Genova al momento non si è rivisto, e resta il fatto che Milito, pur essendo un grande giocatore di caratura internazionale a differenza di Borriello, almeno per ora, comunque il meglio di sé lo aveva dato a Genova in una prima sessione e lo sta a maggior ragione ridando adesso. Sentirei ancora un frammento di questa vigilia, che è un frammento curioso, è un divertente parallelo, divertente non so quanto lusinghiero parallelo che Ranieri ha fatto tra Del Piero e un suo vecchio compagno di squadra. Quando io giocavo con Palanca e sapevo che Palanca prima o poi mi poteva far gol, prima o poi mi poteva far gol su punizione, prima o poi mi poteva far gol su calcio d'angolo, per cui io speravo che nel corso della partita questo qualcosa accadesse ed ero positivo sempre, per cui accade lo stesso con i compagni adesso, tu aspetti sempre che Del Piero possa fare qualcosa. Sì, nelle intenzioni di Ranieri è certamente lusinghiero questo parallelo, poi bisogna vedere come verrà preso. In ogni caso, ogni volta che Ranieri si avventura in un parallelo, una volta Boniperti, stavolta Palanca, poi chissà, forse si potrebbe anche risparmiare oppure comunque chiarirli meglio, inserirli meglio, non importa. L'argomento di oggi è un altro ed è in buona sostanza un'anomalia diventata normalità. Di che si tratta? Si tratta delle restrizioni sulle trasferte, sull'acquisto di biglietti, sull'accesso agli stadi che continuano a penalizzare certamente le società, ma dal mio punto di vista prima ancora gli spettatori. Dico dal mio punto di vista perché in queste settimane ho raccolto molte vostre testimonianze scritte, ne ho fatto una sorta di cahier de doléances e l'ho trasmesso per competenza territoriale a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buon pomeriggio. Marco Bellinazzo, come sapete, perché periodicamente questo e altri argomenti, ma questo in particolare torna, si occupa anche di queste vicende. Allora, lo stato dell'arte qual è? Ma Tarrese ieri si è accorto che qualcosa non va nel mondo del calcio alla buon'ora italiano, direi alla buon'ora, ma era nell'aria, insomma, che le società stessero soffrendo queste limitazioni, queste restrizioni che sono state, diciamo, introdotte fondamentalmente poi a partire dall'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti a Catania nel febbraio del 2007. Restrizioni che appunto facevano fronte a una situazione di emergenza, una situazione diventata intollerabile, ma che lentamente ormai sono diventate la normalità, come qualsiasi tifoso ormai sa. Divieti di trasferte, divieti di acquisto di biglietti per più di una persona, divieto di acquisto di biglietti se uno non è residente nella provincia o nella città in cui si gioca la partita, obbligo di acquisto di biglietti nominativi presentando carta d'identità, codice fiscale, anche gruppo sanguigno certe volte. Certo. E sono diventate la normalità. La norma. Il punto è che non fanno bene al calcio italiano, al sistema economico del calcio italiano, prima ancora, se vogliamo, che al sistema sportivo. E mi sembra, Marco, che questa situazione di stallo sia una situazione di doppia prigionia, nel senso che da un lato lo Stato è ostaggio degli ultra e della paura che possano tornare ad accadere fatti di rara gravità, ed è un dato oggettivo incontrovertibile. Dall'altra, però, è anche vero che l'affezione del pubblico, del singolo tifoso all'appuntamento domenicale o del sabato con la sua squadra diventa sempre più irto di difficoltà, insomma, diventa sempre più difficile da onorare. Sì, Gigi, se vogliamo è anche la contraddizione in cui sta accadendo, diciamo, lo stesso esecutivo. Qualche giorno fa Antonio Manganelli, il capo della polizia, ha ringraziato pubblicamente la Lega Calcio, il CONI, per gli sforzi che hanno fatto e anche le stesse società che hanno diciamo, contribuito all'ammodernamento degli stadi che non sono di loro proprietà, e quindi in qualche modo ha tessuto le lodi di un modello che sta funzionando. E dall'altro però Maroni, il ministro dell'interno, che oggi ha risposto lui direttamente o comunque attraverso i suoi collaboratori alla richiesta di Matarrese di un cambiamento, di uno stop, insomma, a queste restrizioni continue e forzate, dicendo che tutto va bene e non c'è bisogno di cambiare le regole così come sono. Il suo sottosegretario Alfredo Mantovani incalza, questa notizia uscita da poco, il bilancio ad oggi per sicurezza negli stadi è positivo proprio perché sono state applicate correttamente le regole, ha detto Mantovani, e non mi sembra che ciò abbia comportato costi pesanti per le società di calcio. Questo è invece discutibile, nessuno si è mai lamentato del fatto che sia stata impedita la trasferta agli scalmanati, questo è di nuovo oggettivo. Insomma, si balla, ripeto, si balla tra le esigenze dello Stato e tra quelle dei singoli individui che vorrebbero andare allo stadio. Avendo sullo sfondo, scusami se mi permetto, avendo sullo sfondo un grande interrogativo che nasce dal diritto proprio, perché non parliamo più di ultra, parliamo di gente che vorrebbe acquistare il biglietto, quelli che adesso ti sottoporrò, che hanno scritto, che continuano a farsi vivi, magari scriveranno anche nei prossimi minuti, perché approfittiamo della tua presenza per evadere magari qualche altra pratica. Cioè, tutte queste persone regolarmente incensurate, regolarmente abituate a frequentare gli stadi in maniera pacifica, eccetera, eccetera, in realtà non lo possono più fare, oppure lo fanno a costi non economici, ma a costi di vessazione sempre più presenti. Partendo da che cosa? Da una presunzione di colpevolezza del tifoso anziché da una presunzione di innocenza. E questo sul piano giuridico mi sembra molto discutibile. Questo è molto discutibile sul piano giuridico. C'è stato questo lento scivolare, diciamo, come dicevi tu, dal principio di non colpevolezza a un principio invece di colpevolezza o di pericolosità, sì, presunta, di pericolosità, sì, delle tifoserie, che porta e ha portato e sta portando, insomma, l'osservatorio sulle manifestazioni sportive e il CASMS a vietare trasferte, a bloccare la vendita dei biglietti, quindi a imporre restrizioni forti sulla possibilità di fruire dello spettacolo calcistico, e lo sta facendo, insomma, quasi in maniera, diciamo, di assoluta prevenzione, cioè come se il principio di cautela, che è doveroso ovviamente da parte delle istituzioni, si sia, diciamo, abbia preso il sopravvento, e quindi ormai si chiudono gli stadi a prescindere appena c'è il sentore di un qualche pericolo. Per esempio, di qualche ora fa la notizia che è stata vietata la trasferta dei tifosi cagliaritani a Napoli in occasione di Napoli-Cagliari. Ora non è che mi risultino grosse, diciamo, frizioni fra le tifoserie o un pericolo eclatante. E ci vengono in soccorso i numeri, in questo caso è meglio aggrapparsi ai numeri, perché poi i punti di vista, insomma, sono sempre opinabili, discutibili, e dobbiamo dire semplicemente questo, che l'anno scorso, da quando sono state applicate questo tipo di restrizioni, più o meno intorno all'inizio di ottobre, a partire dalla settima, ottava giornata della stagione scorsa, sì, quindi su 320 partite dalla decima giornata, insomma, ci sono state ben 120 limitazioni, tra appunto limitazioni e tucura alla vendita dei biglietti e divieti di trasferta, quindi quasi il 40% 120, di partite. Sì, 120 su 320 fa in, per l'appunto quasi. Parliamo soltanto della Serie A. Sì, senza poi appunto entrare nel dettaglio di categorie minori. L'esperienza anche concreta mi insegna, perché io poi insomma sarò un po' malato da questo punto di vista, ma ho fatto queste determinazioni, così si chiamano, insomma, sì, le decisioni delle autorità, e ho notato come l'anno scorso c'erano ogni volta tre o quattro partite che venivano, come dire, analizzate, e quindi per le quali poi c'erano dei provvedimenti. Sì. Oggi ormai si prendono dei grappoli, 10-15 partite, e vengono sanzionate in maniera preventiva con la chiusura di stadi, limitazioni, ripetiamo, alla vendita dei biglietti, e si è arrivati per la sola Serie A in appena 10 giornate, 11 giornate, insomma 110 partite, a circa 32 match per la sola Serie A, con restrizioni che sono ancora più pesanti di quello dello scorso campionato, quindi in termini di diciamo spettatori non sappiamo esattamente qual è il bilancio. Quindi anche qui oltre il 30% di... Cala leggermente la percentuale, cala leggermente, se proprio vogliamo, però... Ma le restrizioni sono più diciamo importanti, perché ricordiamo che questo campionato è partito con gli incidenti di Roma-Napoli e il divieto assoluto per tutto il campionato, appunto, di trasferte per i tifosi del Napoli. Il capo della polizia Antonio Manganelli qualche giorno fa ha dato delle cifre, insomma, molto interessanti su quello che avveniva in passato, e per quanto riguarda invece l'avvio di questa stagione ha detto, insomma, che ci sono stati 500.000 spettatori in più, però non ha precisato in quali campionati. Insomma, a me sembra un dato molto ottimistico, e se Matarrese è sceso in campo ieri in maniera così eclatante, vuol dire che tanti spettatori in più negli stadi non, certo, ci sono. Certo. Oh, io non vorrei che il taglio di questo di questa puntata di oggi sembrasse eversiva, nel senso che non stiamo facendo una campagna per il ripristino tout court di come erano prima le cose. Stiamo però dicendo che così come c'è un'esigenza di ordine pubblico assolutamente primaria, che ha portato a queste restrizioni, la sensazione nostra è che ci sia uno stallo nel trovare una formula più evoluta di controllo e di misure di questo genere. Probabilmente è arrivato il momento di trovare le soluzioni, qualcosa si sta muovendo, come diremo magari nella seconda parte, e appunto lungi da noi voler difendere chi è, diciamo, abituato ad andare allo stadio non per guardare la partita ma per... No, difatti, e faremo in questa seconda parte una casistica di episodi e di persone che hanno trovato serie difficoltà a esercitare un loro diritto riferito per l'appunto, tra l'altro, al tempo libero. Sono mesi che le scrivo, Luca da Parma, che qualunque divieto alla libera circolazione dei cittadini non è democrazia. Lei mi ha sempre dato torto dicendo che l'osservatorio ha deciso, ma ora cambia idea. Questo le fa onore, ma ribadisco, i divieti contro la maggioranza dei tifosi sono una prevaricazione alla libertà. Io distinguerei tra uno stato d'emergenza che ha diritto di esserci, anzi che ha il dovere di esserci, ma quando l'emergenza dura un anno, dura due anni, non è più emergenza, diventa uno statu quo su cui si ha il dovere, a parer mio, di discutere. Domanda Alessandro: fatemi capire, ma se io sono a Bergamo per lavoro e voglio assistere a una partita, non essendo residente, non potrei acquistare il biglietto? Dipende ovviamente dalla partita, ma normalmente quando c'è un divieto si stabilisce che possono acquistare biglietti solo i residenti in quella provincia. E allora questo mi fa cambiare la scaletta, no? Perché credo che sia capitato anche a qualcuno dei presenti qua. Che uno dei principi del giornalismo è quello della giusta distanza, no? Certo. Però io sono convinto che in certi casi... Del non caso personale, però ecco, in certi casi invece in certi può casi servire è importante a capire. Perché uno poi sulla propria pelle capisce cosa vuol dire. A me è capitato, essendo io tifoso del Napoli, forse dall'accento si intuisce anche la mia provenienza, ma vivo a Milano da diversi anni, di essere qui a Milano, tra l'altro con mio padre che vive ancora a Napoli, e volevo insomma portarlo allo stadio, essendo anche lui un tifoso del Napoli, volendo vivere insieme questo momento. E mi sono imbattuto per Milan-Napoli, e mi sono imbattuto contro una serie di impossibilità per acquistare il biglietto, che mi hanno fatto sentire un po' discriminato, per la verità. Appunto, i biglietti, vietata la trasferta, i biglietti potevano essere acquistati soltanto a Milano, ma soltanto da chi era in possesso di questa tessera cuore tifoso milanista, quasi cuore rossonero, siamo precisi, e so soltanto per un residente nella provincia di Milano io potevo andarci allo stadio, mio padre no, e di fatto insomma mi sono stato messo nelle condizioni di non andarci allo stadio, perché pur essendo io insomma incensurato, anche mio padre siamo stati messi in queste condizioni. Peraltro la cosa strana, ora qui si finisce sempre a fare la guerra fra poveri, ma alla partita potevano assistere anche gli stranieri muniti di regolare passaporto, quindi un napoletano no, gli stranieri sì. Ora diamo adito ai, insomma, ai tanti, certo, come dire, facinorosi della razza di poter giocare intorno a questa cosa, ma in realtà questo ci riporta ai principi giuridici a cui abbiamo prima fatto appello, per dire che insomma queste restrizioni che fanno riferimento al luogo di nascita, alla residenza, per impedire a una persona di andare a vedere una partita di calcio di cui è tifoso, per una squadra di cui è tifoso, in un'altra città, rischiano, come dire, di allontanare o di far rompere il giocattolo, insomma. Vedremo più avanti come si sta provando ad uscire da questa situazione, per esempio con questa benedetta o famigerata, lo vedremo, tessera del tifoso. Prima facciamo qualche tappa. Andrea Spinelli ha scritto, ed è uno di quei messaggi che ho messo da parte per tempo. Andrea Spinelli a Treviso dice: questa domenica volevo recarmi al Bentegodi per vedere Chievo-Juve, ed è la scorsa settimana, leggo sul sito del Chievo che i biglietti sono in vendita online eccetera, e inizia il racconto di una via crucis in piena regola, poi stiamo parlando per carità di una partita di calcio, però si può prendere solo un biglietto a testa, non si sa come fare a prenderne due, doppia transazione con carta di credito, poi vendita online sospesa a tradimento. Esattamente quello che ha detto Manganelli l'altro giorno. Noi stiamo cercando di creare un percorso a ostacoli per far defluire i tifosi, diciamo, i tifosi, gli ultra o comunque i violenti. Ora, in questo percorso a ostacoli, purtroppo spesso restano incastrati proprio coloro invece che violenti non sono, che vogliono semplicemente andarsi a godere un momento di calcio, certo, e restano, come dire, delusi. E alla lunga non vorrei appunto che questo, diciamo, questo percorso a ostacoli finisca semplicemente per allontanare sempre più gente dallo stadio. Se poi si vuole un popolo di tifosi che si guarda la partita davanti alla televisione, insomma, a questo punto forse stiamo parlando di un'altra cosa. Sì, forse alla fine non è più nemmeno da escludere, forse, però ripeto, il concetto base che, insomma, che è per l'appunto la base di questa discussione, di questa riflessione a voce alta di oggi, è un altro, e cioè è quando finisce l'emergenza e come si può uscire dall'emergenza. Se l'emergenza invece deve continuare, allora forse è caso di studiare in qualche altra maniera. Agostino Ghiglione, un romano, qualche giorno fa ci ha raccontato di un viaggio in Liguria per il Ponte dei Morti, si è accorto che c'era Genoa Cagliari, e visto che il Genoa lo incuriosiva non poco, al di là del tifo, avrebbe voluto andare allo stadio. Anche lui ci racconta la Via Crucis, che culmina con un biglietto dei distinti, finalmente dopo vicissitudini infinite, finalmente ottenuto. La sera partita, identificazione, il rito del passaggio ai tornelli, scrive, e in più alcune altre disavventure, insomma la lettera è molto lunga. Riassumi tu. Gli stati sono cambiati, questo campionato è il primo in cui, diciamo, le modifiche, gli interventi di riforma che sono intervenuti dopo la morte di Filippo Raciti sono entrati pienamente in vigore. Acquisto quindi biglietti nominativi, accesso agli stadi in sicurezza attraverso i tornelli, stadi in cui la sicurezza deve essere garantita dagli steward mentre la polizia è all'esterno. Tra l'altro, apro una parentesi, Manganelli ha sempre detto che ormai sono circa in media 4.000-5.000 di agenti di pubblica sicurezza che presidiano gli stadi, a fronte di circa 10-11.000 diciamo, del passato, per cui effettivamente c'è questo spostamento, per cui appunto polizia, carabinieri, certo, controllano all'esterno, gli steward all'interno, anche se cominciano ad esserci i primi problemi con gli steward, di violenze che subiscono o di qualche steward che fa il furbo a rotonda facendo passare i tifosi. Qua e là nelle cronache locali cominciano, strano, a emergere questi fenomeni. Comunque gli stadi dovevano cambiare, ci hanno raccontato questo, stanno faticosamente cambiando. Il punto è che mentre si deve, a mio avviso, partire da un principio, diciamo, per cui il tifoso deve essere messo nelle condizioni di andare allo stadio se vuole andare a vedere la partita e deve essere allontanato chi è pericoloso, questo controllo devono farlo le società e le forze dell'ordine, che devono essere in grado di farlo a prescindere, e quindi diciamo anche se diciamo impedendo che chi abbia un DASPO, per esempio, e sono 459 quelli applicati quest'anno, oltre 3600 che erano già in vigore, e deve essere la società, diciamo, a impedire a chi ha un DASPO, a chi ha subito, diciamo, sanzioni penali per violenze negli stadi, di acquistare il biglietto, mentre chi è in condizioni, diciamo, di essere incensurato, di non aver creato problemi, deve poterlo acquistare, a prescindere da dove sia nato o da dove sia, diciamo, la sua residenza. Direi proprio di sì. Scrive Andrea da Pisa: sabato sono andato a vedere Pisa-Ascoli, partita vietata agli ospiti, e quel settore è destinato solo alle famiglie. Io ero in quel settore con i miei figli e le posso dire che è stata una bella esperienza, purtroppo non so quando si ripeterà. Andrea, escludo che sia stata una bella esperienza, o meglio, lo è stata se guardiamo fino al nostro naso. Se parliamo di quello che dovrebbe essere uno stadio di calcio, io credo che in quel settore devono esserci le famiglie ascolane. Lei doveva stare in quello stesso settore con la sua famiglia, perché non vedo perché non possano convivere famiglie ascolane e pisane, e tutti i violenti e i dementi dovevano essere fuori dallo stadio. Però non può essere questa, è il concetto di questa puntata, non può essere questa emergenza, non può diventare addirittura un modello di riferimento. Io credo di no. Ripetiamo, partiamo da una situazione in cui diciamo nei 5 anni precedenti, insomma, a questa stagione, c'erano state oltre 1000 partite con incidenti, oltre 5000 feriti, di cui 3800 della forza di polizia, erano state denunciate oltre 7800 persone, 2000 arresti. Prima della morte di Rashid erano purtroppo morti per situazioni, insomma, legate a eventi calcistici, almeno diciamo 10-15 persone negli ultimi 10-15 anni, sono dati che sempre riporto dalle dichiarazioni di Manganelli, insomma un bollettino di guerra inaccettabile, chiaramente, certo, inaccettabile. Non so se la strada però dell'emergenza perpetua, della chiusura degli stadi a tutte le tifoserie ospiti o comunque a quelle che possono creare dei problemi, diciamo, per precedenti storici, se tutto magari questo per fatti, possa essere questo davvero la soluzione. Perfetto, allora perfetto al momento, perché poi abbiamo da parlare della testa del tifoso, abbiamo da ospitare qualche vostro intervento in diretta, dobbiamo chiedere al caporedattore del Sole 24 Ore se Marco Bellinazzo può fermarsi qualche altro minuto da noi, perché questo a sto punto mi sembra indispensabile. Ho 44 anni, scrive Stefano Corsi da Lodi. Insegno latino in un liceo, l'atto più violento da me compiuto, abitando a Lodi, è stata l'uccisione di qualche zanzara. Ma proprio perché lodigiano non potrò vedere Atalanta-Napoli. Sono nato a Bergamo, sono tifoso dell'Atalanta, vivendo fuori provincia sono automaticamente escluso. Chi devo ringraziare? Giro a te, Marco Bellinazzo. Io direi purtroppo che non può ringraziare nessuno, insomma, non può ringraziare nessuno, certo, non si possono ringraziare quelli violenti, a prescindere, certo. Mi veniva in mente ringraziare il ministro Maroni, ma in fondo sta facendo il suo dovere. Forse bisogna rivedere il modo in cui tutelare il calcio. Arriviamo un po' alla volta alla testa del tifoso. Volevo leggerti ancora però quest'altra mail, che è di 2 giorni fa e che ho trovato molto, molto seria. È una riflessione che in pochi abbiamo, mi ci metto anch'io, fatto. La firma Mauro Russo. Sono Mauro Russo da Bologna, volevo chiedere, dopo i fatti di Bologna-Juventus, cioè un tifoso della Juve colpito e mandato all'ospedale in condizioni gravi, in prossimità dello stadio, come mai non si è provveduto, come in casi analoghi, grande o piccola, la violenza è sempre violenza, una vita equivale a 100 vite, alla sanzione di chiudere le curve o provvedimenti della società? In altri casi è successo, anche per meno, non è che ci sarà il confine dell'Appennino a dividere i cattivi dai buoni? Una voce con inflessione napoletana può essere forse la più indicata a rispondere. Io mi sono documentato sulla vicenda, Il CASMS ha fatto, diciamo, delle indagini, delle valutazioni nel caso specifico dell'aggressione, si è basato su una ricostruzione fatta dal questore, per cui sembrerebbe che diciamo, la violenza sia, diciamo, non sia legata ad aspetti direttamente riconducibili al momento sportivo, per cui diciamo è ancora sotto osservazione, allora, e si aspetta l'esito delle indagini, diciamo. Marco, io però faccio subito una controdeduzione: delle due l'una, come diceva l'immenso e irraggiungibile Montanelli, delle due l'una, o non era vero che questo ragazzo aggredito dagli ultra, che poi il padre ha cercato di difendere e lì sono arrivate appunto le coltellate, o non era vero che questo ragazzo aveva la sciarpa bianconera e quindi ci hanno informato male all'inizio, oppure se aveva la sciarpa bianconera è stato aggredito e il padre ha dovuto difendere, c'era. Che non sia, come scrivono, riconducibile direttamente al momento, ecco, sportivo. Che non sia direttamente riconducibile al momento sportivo mi sembra un po' fragile, come, no? Vabbè, ma non è, non, ripeto, oggi non vogliamo essere né eversivi né insinuare il sospetto che ci siano figli e figliastri in giro tra le tifoserie. Diciamo che altrove c'era stata una severità maggiore. Dalla provincia di Como, Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho un'esperienza simile a quella del signor Berinazzo, più o meno, e anche a quello del signor Duino di Lodi. Praticamente siamo due amici napoletani, uno residente in provincia di Como, uno residente in provincia di Bergamo, uno può andare allo stadio e l'altro no, entrambi professionisti che non hanno niente a che fare con il mondo del calcio, organizzato, e che sono circa 10 anni che più o meno non vanno allo stadio. Volevamo andare insieme allo stadio con le mogli, non possiamo andare, lui, o meglio, lui potrebbe andare, io no, e a quel punto, a questo punto abbiamo deciso, non ci va nessuno di tutti e due, ci vediamo la partita su Sky, del quale peraltro sono abbonato. Certo, ma e non mi sembra una cosa molto equa, no, così neanche. Come quella del signore o di un mio collega che pure tifoso dell'Atalanta ma risiede a Bergamo, mi sembra un sistema un po' bizzarro, bisognerebbe casomai identificare persona per persona tutti e sai dopo dove andarti a rivolgere nel caso di eventuali incidenti, perché vendendoli uno per uno ha ragione Massimiliano, ha ragione. Allora proviamo a vedere se questa famosa tessera del tifoso, che è preannunciata per il momento dal ministro degli interni e che Marco Berinazzo ha studiato già preventivamente, anche perché come avete capito lo riguarda personalmente come tifoso del Napoli, vediamo se il tessera del tifoso può essere, non dico la panacea, ma un inizio di soluzione. Potrebbe essere, è stata preannunciata proprio prima di Milan-Napoli, c'era una conferenza stampa, c'era Galliani, c'era il ministro appunto dell'interno Maroni, e si vorrebbe farla adottare obbligatoriamente a partire dal prossimo campionato. Cos'è questa tessera? È una sorta di bancomat o di telepass del tifoso, come la diciamo in maniera immaginifica descritta il capo della polizia Manganelli. Sì. Dovrebbe consentire di, come dire, fare un controllo preventivo su chi si dichiara tifoso di una certa squadra, verificare per esempio se non sia stato colpito da un DASPO, se non abbia precedenti, sì, penali per fatti legati alla violenza negli stadi, e in questo modo, diciamo, sancire l'onestà o la non appartenenza alle tifoserie organizzate della persona e consentirle quindi di acquistare biglietti non solo per le partite casalinghe della squadra del cuore, ma anche per le trasferte, anche quando c'è un divieto di trasferta, per cui c'è una patente del tifoso buono, chiamiamola così, sì, che dovrebbe, diciamo, semplificare un po' la vita o dei tifosi italiani. Ma Tarresi ha detto che non si può obbligare tutte le persone a fare la tessera, che se le società si mettono di buzzo buono, ha detto lui, possono effettivamente implementare questo nuovo sistema, creare questo nuovo sistema per la prossima stagione, ma che lui aveva, insomma, qualche dubbio sulla possibilità che questa sia la soluzione. È stato aggiunto, insomma, che questa tessera potrebbe garantire degli sconti anche negli autogrill durante le trasferte, potrebbe consentire ai tifosi di assistere per esempio agli allenamenti, creare una sorta di dipartimento del tifoso per cui uno viene accolto nelle strutture. È forse, insomma, appunto uno strumento che insieme ad altri provvedimenti potrebbe consentire di evitare le discriminazioni, perché di quello si tratta, di quello soprattutto poi uno si accorge e vive sulla propria pelle, a cui stiamo assistendo, insomma, in questi mesi. Sentirei un altro ascoltatore e poi magari ci dici anche quali potrebbero essere invece gli aspetti negativi di questo e potremmo fare qualche controdeduzione. Roberto ha chiamato dalla provincia di Bologna, buongiorno. Salve Didi. Buongiorno. Io volevo dire la mia esperienza. Allora, io ho fatto esperienza di stadio per diversi anni, però ho notato che negli ultimi tempi noi persone che frequentiamo lo stadio, andiamo a lavorare, siamo persone oneste, fedina, pinale, pulita, abbiamo tutto l'iter dei documenti, dei tornelli, di entrare a partita iniziata perché ci sono due tornelli per 5.000 persone, mentre gli ultras entrano totalmente anonimi, perché lo sappiamo tutti che gli ultras hanno delle mazzette di abbonamenti anonimi, totalmente anonimi, e quindi nessuno sa chi sono queste persone, però loro possono entrare allo stadio deridendo noi altri che facciamo tutta la fila come dovrebbero fare anche loro, e in realtà loro non fanno. Quindi alla fine dei conti è solamente una presa in giro per noi che vogliamo andare allo stadio e gustarci una partita, e invece questi qua vanno allo stadio prendendo anche in giro noi. Quindi penso che stanno allontanando noi persone che vogliamo andare allo stadio, e invece stanno cercando praticamente di isolare quelle persone lì, però loro possono fare sempre quello che gli pare. Siamo arrivati alla radice quadrata del problema, io credo, no? Perché la disparità di trattamento non è tanto, nel senso, e qui davvero lo Stato e il Ministero degli Interni e tutto l'apparato viene chiamato in causa direttamente, e a parer mio molto pesantemente. Non è più l'onesto che cioè il quello che ha precedenti, che viene vessato e che deve dimostrare di... è il contrario, siamo noi persone normali che dobbiamo sopportare ogni tipo di vessazione e di controllo, mentre per questi continuano a esserci gli sconti, perché è meglio averli in una curva che non averli in centro cittadino, dico io da tanti anni. Il discorso appunto qui diventa sociologico, diventa diciamo più ampio, e forse ci sarà modo insomma di approfondirlo in altra sede. La connivenza tra le società e le tifoserie organizzate, chiamiamolo organizzate, per fare cosa poi insomma, cioè, sappiamo che spesso no, è al limite del penale, deve essere spezzato. Molte società ci stanno lavorando, non è semplice, non ci nascondiamo insomma il fatto che è difficile rompere certe abitudini o riuscire a frenare certi fenomeni delinquenziali. Io credo che per esempio la privatizzazione degli stadi, sì, la piena responsabilizzazione delle società anche nella gestione della sicurezza negli stadi potrebbe essere una soluzione. Ho visto che hai occhiaggiato l'orologio, in effetti siamo vicini alla conclusione. Ha introdotto l'argomento che se fossimo stati più sintetici avremmo affrontato oggi, e che invece, visti anche i numerosi interventi degli ascoltatori, rinviamo alla prossima settimana, che è però l'appendice di quello che stiamo dicendo e potrebbe essere l'inizio della svolta vera, più ancora la testa del tifoso, e cioè nuovi impianti la sicurezza possa anche essere... Anche la politica sta cercando di fare la sua parte, è stato presentato appunto un disegno di legge in Parlamento, bipartisan, per cui insomma potrebbe avere qualche possibilità, avere qualche chance. Appuntamento sin d'ora con Marco Belinazzo alla prossima settimana per questo disegno di legge, per i nuovi stadi e per nuovi scenari, approfondendo poi il discorso anche sulla tessera del tifoso. Grazie Marco Belinazzo. Grazie a voi. Ultima parte dell'appuntamento di oggi con il ripristino innanzitutto delle buone abitudini. Quindi Nicola Filippone con il ripasso di storia. Sembra ieri. 13 novembre 1960. La Roma di Alfredo Foni batte 4-0 la Lazio di Fulvio Bernardini. È il quinto derby consecutivo vinto dai giallorossi e il successo più netto mai ottenuto dopo il 5-0 della stagione 33-34. L'eroe della giornata è il centravanti argentino Pedro Manfredini, detto Piedone, autore di una tripletta. La Roma, trascinata dai gol di Manfredini, spesso ispirato dallo svedese Selmosson, chiuderà la stagione al quinto posto e conquisterà la Coppa delle Fiere. La Lazio invece non si riprenderà dallo shock del derby e retrocederà per la prima volta dall'introduzione del girone unico, terminando il torneo in ultima posizione. Sembra che i rapporti di forza oggi siano un tantinello mutati. Stamattina c'è stato un incidente, un infortunio alle Rossi che ha fatto pensare al peggio a lungo, e invece pare, l'ultima notizia dice che è scongiurata la frattura e ha riportato soltanto al polso sinistro un'infrazione dello scafoide carpale con interessamento capsulo legamentoso limitrofo. Non ci sono ancora notizie di prognosi, ma insomma, può anche darsi che con una protezione De Rossi riesca ugualmente ad essere della partita, cosa che una frattura del polso non avrebbe potuto, non avrebbe potuto essere, e anche per un bel po' di tempo. Invece stagione finita, piove sul bagnato a Real Madrid, stagione finita per Van Nistelrooy. È stato operato al ginocchio in America, e la prognosi che è stata fatta, ecco, sto rintracciando notizie, scusate, il bollettino medico: resterà lontano dai campi dai 6 ai 9 mesi, e quindi questo significa che per l'uomo chiave del Real Madrid la stagione è davvero terminata. Sentiamo Nunzio da Brescia, buongiorno. No, lei. Dica. Ma io sono un sessantenne che da quasi 20 anni non va più allo stadio, proprio per le ragioni che conosciamo da moltissimi anni. Quando ho rischiato di essere colpito da un razzo mi sono domandato: ma chi me lo fa fare, ovviamente? Me l'immagino. Quindi si parla tanto di disparità, e si parla tanto soprattutto di una minoranza che condiziona una maggioranza. Sì. Allora, un'idea bizzarra che mi è venuta, e dico, ho pensato: ma per quale motivo e per quale ragione non si riesce poi ad attuare? Non mi sembra poi così impossibile. Visto che le persone poi sono facilmente individuabili da come sono vestite, anche spesso e volentieri, una schedatura di 4 ore totale delle persone che entrano negli stadi, indipendentemente che vengano da Roma, da Napoli, da Milano, da qualunque parte del mondo, ma con uno scanner, visto che oggi i sistemi ci sono per poter fare la schedatura, ripeto, totale della persona, con una fotografia davanti e dietro sul vestiario, ovviamente, soprattutto le impronte digitali e la carta d'identità, e schedatura che ovviamente deve essere poi immediatamente annullata entro 4-5 ore, non so, il tempo fino alla partita, quando ci si rende conto che non è successo nulla e che non serve nulla, le autorità competenti debbono immediatamente ovviamente annullare tutti questi dati raccolti. Perché non è possibile farla? Non lo so, mi sembra un po' macchinosetta, così detta, cioè, sentita per la prima volta. Poi, per carità, si potrebbe approfondire. Mi sembra un po' non proprio di semplicissima attuazione. Oh, Coppa, vabbè, stasera qualcuno scrive: ma vi ricordate che stasera c'è Juventus Genoa? Ma vi ricordate di accendere la radio alle 2 in punto, che così sentite anche la prima parte del programma e non soltanto quella dopo, in cui non possiamo continuare a ripetere le stesse cose, così per ovvie ragioni. Trovo interessante questo bilancio del turno di coppe nazionali in Europa. Ieri avevamo detto appunto della caduta del Real Madrid, che adesso ha perso pure Van Nistelrooy per tutto l'anno, e del Lione. Ieri ha toccato al Chelsea e al Liverpool. Vuol dire che si è sempre detto che nel resto d'Europa le coppe non venivano snobbate. Beh, forse questa tendenza si sta invertendo, perché pazienza per il Liverpool, che ha perso dal Tottenham e che quindi aveva un grande avversario in ascesa, tra l'altro, di rendimento, ma le altre lasciano un tantino perplesse. Paolo ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno, Paolo Marzi da Modena. Dica. Io la chiamavo per un intervento velocissimo. Lei, ma riguardo alla tessera del tifoso, lei non pensa che già il fatto che Matarrese abbia dei dubbi sia un ottimo motivo per adottarla? Paolo, il suo voto è alto, diciamo, poi sinceramente non porta questo intervento un grande contributo sostanziale, no, al problema dal punto di vista formale, dato che è un tema greve, indubbiamente lo alleggerisce nella maniera migliore. Grazie. Sentiamo se alleggerisce anche Paolillo, che mi pare sia il direttore generale dell'Inter, a proposito di Adriano e del caso che è tornato ad attraversare le vicende nerazzurre. Adriano si è allenato tranquillamente, si è allenato oggi, per cui non c'è nulla da dire. Quello che fa l'allenatore lo fa la società, siamo sempre tutti uniti su questo. Non ho altro da dire, tutto quello che devo dire l'ho detto. Grazie. Beh, sinceramente pensavo a un frammento più significativo. È curioso comunque, no, è curioso, è interessante, l'avevamo, tanto valeva darlo. C'è ancora un ascoltatore collegato, che è Albino da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io ho 62 anni e non ci vado allo stadio da tanto, da quando lo stadio di San Siro è cominciato a piovere di tutto, compresi i motorini, per cui ho smesso di andarci. Volevo solo dire: ma come mai non si fa come in Inghilterra, dove avevano degli hooligans pazzeschi e sono riusciti a debellare questo fenomeno semplicemente facendo leva sulla giustizia, facendo funzionare veramente la giustizia e mettendo in galera, perché lì si mette in galera, chi osa toccare un Bobby o chi osa toccare un poliziotto? Beh, lo so, Albino, questa sarebbe la cura radicale, no? Questa è qualcosa che viene invocato da molto tempo, ma che evidentemente non fa parte delle cose possibili nel nostro paese, ma questo però non soltanto nel calcio, me lo lasci dire. Credo che altrove, come per esempio in Inghilterra, siano possibili tante altre cose e non soltanto le mode del pallone, che da noi invece proprio non lo sono. Mi pare il momento dei saluti, sì, l'orario dice questo. Allora grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Giornale Radio.